Maite. Wanangu gemula leo, atoki mtu jamani, welita kufaji tu wanjani. Atoki mtu jamani, welita kufaji tu wanjani. Usiwaona na konda, awaipendi Simba, wanaichukia Simba. Visila ni kama na mimba, wanakerwa na Simba, awaipendi Simba. Nugazi tunakutuma salamu peleka, wambie wanao Simba no mabingwa fika. Wepiga kelele madada vigelege, Simba tabaki Simba ashindani na ngede. Awanangu niwambie, niwaeleze na Simba niwambie, niwaeleze. Ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure, ukinunua jezi ya Simba ya Yanga unapewa bure. Oh, sale zinaendelea, ebwe bwana pendeza tu. Sale zinaendelea, ebwe bwana pendeza tu. Sale zinaendelea, ebwe bwana pendeza tu. Sale zinaendelea, ebwe bwana pendeza tu. Oh, mbona pambe, video la pambe. Mbona pambe, video la pambe. Mbona pambe, utopolo pambe. Mbona pambe, utopolo pambe. Kama tuondoki vile, kama tuondoki vile, kama tuondoki vile, kama tuondoki vile. Kama tuondoki vile, kama tuondoki vile, kama tuondoki vile, kama tuondoki vile. We nasikia kelele uko wanalia, nasikia kelele uko wanalia. We nasikia kelele uko wanalia, nasikia kelele uko wanalia. Oh, kwani vipi? Mnyama anafanya yake. Kwani vipi? Mnyama anafanya yake. We Manara kwani vipi? Mnyama anafanya yake. Onde uji kwani vipi? Mnyama anafanya yake. Atia, atia, atia, atia, atia, atia. Wanalitaga nulo makabila ya ni King of Singeli. We meneja mtupisi, doni fumbwe. Acha, acha, chasa. Mnyama anafanya yake.